Allora, grazie a tutti per essere venuti, Benendidos, vi ringrazio insomma tutti quanti, soprattutto ringrazio Elisabetta Teghil che è qua con noi e Silvia Baraldini che sono presenti a questa iniziativa. Un'iniziativa questa a cui teniamo molto, visti i temi che affronteremo, la questione della donna, della razza e della classe. Parliamo infatti degli oppressi, che sono le categorie che più di tutti oggi subiscono a pieno la politica razzista, fascista, sessista, che è messa in atto in questo sistema che utilizza la stampa e le televisioni per creare e diffondere in ogni modo la mercificazione del corpo e degli esseri umani in generale, portando avanti una politica che è figlia del patriarcato e che trova nel capitalismo la sua massima espressione, che sembra quasi ormai impossibile da fermare, da arrestare. Donne e uomini come merce che vengono scambiati, venduti, oggetto del divertimento del maschio forte e virile, maschio che spesso ne decide la vita e la morte. E allora, in questi tempi bui e di repressione, dobbiamo prima di tutto fissare dei punti solidi e come donne e oppressi circoscrivere la nostra lotta. Scrive a questo proposito Angela Davis, attivista per i diritti umani e membro delle Black Panther, riprendendo alcuni passi di una canzone per la libertà che veniva cantata negli Stati Uniti all'epoca del movimento di liberazione del XX secolo. La libertà è una lotta costante. Il femminismo implica molto di più che non la sola uguaglianza di genere, e implica molto di più del genere. Il femminismo deve implicare una coscienza del capitalismo, perlomeno il femminismo in cui mi riconosco. E ci sono molteplici forme di femminismo, o sbaglio? Deve implicare una coscienza riguardo al capitalismo, al razzismo, al colonialismo, ai postcolonialismi, all'abilità. È una quantità di generi più grande di quanto possiamo immaginare, così tanti nomi per la sessualità che mai avremmo potuto pensare di poter annoverare. Il femminismo non solo ci ha permesso di riconoscere uno spettro di connessioni tra discorsi, istituzioni, identità, ideologie che spesso saremmo portati a considerare separatamente, ma ci ha anche permesso di sviluppare strategie epistemologiche e organizzative che ci spingono al di là delle categorie di donne e genere. Inoltre, le metodologie adottate dal femminismo ci inducono a esplorare connessioni non sempre manifeste e ci portano ad abitare le contraddizioni e a scoprire ciò che in queste contraddizioni è fertile. Il femminismo persegue metodi di analisi e di intervento che ci impongono di associare cose in apparenza isolate e di scorporare quello che si direbbe naturalmente inscindibili. Ecco, proprio da queste parole, da questo concetto vorremmo iniziare la discussione stasera, proprio per riflettere sulle parole del femminismo, la parola femminismo. Da poco leggevamo un opuscolo che è stato stampato a Bologna dalle Mujer Libres, in cui si poneva proprio l'accento sul fatto che se il termine femminismo perde la sua connotazione resistenziale, ribelle, si svuota del suo significato più profondo, che è quello della lotta contro contro la società che è sbagliata, che è ingiusta. E sempre in questo opuscolo veniva analizzato come la degenerazione della parola femminismo possa portare a delle situazioni paradossali dove anche le donne, per esempio di estrema destra, possono dirsi a favore delle specificità femminili, loro dicono, in cui ritroviamo delle caratteristiche che non ci appartengono, perché il carattere è completamente caritatevole, antiabortista. Tende a perpetuare all'interno della società una figura della donna che è completamente sottomessa all'uomo, alla sua spalla. E il posto ideale è quello della casa, della famiglia, utile appunto solo all'uomo. A questo tipo di brutalità femminista dobbiamo opporci. E per questo la difesa, autodifesa della donna può passare solo attraverso proprio questa lotta costante di cui ci parlava Angela Davis. È appunto attraverso un percorso che è intersezionale, trasversale, a classe, etnia e provenienza. Ed è per questo interessante analizzare come diversi movimenti di liberazione degli anni 60 ad oggi pongano la questione femminile proprio come centro nevralgico da cui ripartire, da cui creare nuove possibilità. Anche in Sardegna, per esempio, abbiamo avuto alcuni movimenti antagonisti che hanno elaborato degli aspetti importanti e condivisibili, come il fatto ad esempio che la donna venga sfruttata 3 volte, come donna, come proletaria e come colonizzata, affrontando quindi la questione nazionale però in chiave internazionalista. Partendo da questo, la domanda che dovremmo farci è: quale ruolo hanno avuto le donne, non dico solo in Sardegna naturalmente, ma a livello internazionale, durante le fasi di ribellione e rivolta, e quando il loro contributo è stato piuttosto solo teorico o anche pratico? Perché nella maggior parte dei casi noi vediamo le donne, soprattutto qua in Sardegna, in prima fila, no? Che prendono parte alle manifestazioni, però il livello teorico del, ideologico, l'apporto ideologico manca completamente molto spesso. Non credo che non ci sia stato, ma sicuramente è nascosto. Un altro aspetto da affrontare insieme è proprio quello che tu definisci il diritto alla ribellione, Silvia, di cui parli spesso. Diritto che ormai è abolito, represso da continue e sempre più frequenti condanne per chi lo esercita, è causato proprio dall'appiattimento della protesta che spesso ormai è asservita alle logiche della democrazia borghese. E allora spesso mi chiedo e ci chiediamo, e vorremmo che ne parlassimo insieme stasera, in questi tempi in cui si è perso il senso delle cose, dove si crea panico e terrore per distrarre completamente dalla furia del capitalismo, come facciamo a insegnare il valore della resistenza ai nostri figli, ai giovani d'oggi? Passo la parola a Elisabetta. Ciao a tutte e ciao a tutti, io sono Elisabetta della Coordinamento Femminista e Lesbica di Roma. Sono molto contenta di essere qui e quindi riporto il saluto di tutte le compagne del nostro gruppo di Roma. Questo incontro viene da un'iniziativa che abbiamo fatto a Roma con Silvia come coordinamento e che fa parte però di un ciclo. Il ciclo che è durato quasi un anno l'abbiamo chiamato Femminismo Paradigma della Violenza Non Violenza ed era composto da una serie di iniziative. Perché abbiamo deciso di indagare il paradigma della violenza non violenza? Perché in questo contesto storico in cui siamo infilate ci sembra particolarmente importante smontare tutta una serie di paradigmi, fra cui questo della violenza non violenza, che il sistema ha usato in questi anni per affossare qualsiasi tentativo o anche immaginario di ribellione e di un altro mondo diverso da quello in cui siamo infilate. E praticamente il paradigma della violenza non violenza viene usato sistematicamente per demonizzare ogni tipo di azione politica e trascinarla in una sfera delinquenziale. Ogni volta che viene rotto un bancomat, ogni volta che viene bruciata una macchina, ogni volta che viene fatta una scritta sui muri, ogni volta che viene interrotto il traffico, anche le manifestazioni di protesta più, chiamiamole blande, che una volta avremmo definito addirittura pacifiche, vengono demonizzate, viene demonizzata la violenza, viene definita come azione fuori dal contesto democratico, il sistema si pone come depositario della democraticità e della serenità del confronto a cui tutte e tutti dovremmo far riferimento, e quindi attraverso il paradigma della violenza non violenza è stato demonizzato ogni qualsiasi possibilità di ribellione e addirittura anche della semplice disobbedienza civile. Però ci siamo chieste come viene costruito questo paradigma, attraverso quali meccanismi, attraverso quali passi, per cui e come è stato costruito, perché noi adesso ci siamo infilate dentro assolutamente, se il comune sentire è attraversato da questo. È stato costruito attraverso una serie di meccanismi e infatti noi abbiamo fatto una serie di sezioni in questo ciclo in cui una era dedicata per esempio alla legalità e alla norma, cioè questo feticcio della legalità e della legge che che ormai ha invaso tutte le coscienze, che viene tirato fuori da ogni piede spinto. Quindi la legge deve essere rispettata come se non fosse lo specchio di un rapporto di forza, invece, no? È fatta dai dominanti ed è destinata ai dominati. Poi, ad esempio, la costruzione dell'egemonia culturale, perché l'egemonia culturale è emblematica di come si è mosso il sistema in questi anni. È un'egemonia culturale, quella che attraversa il comune sentire, che ha profondi valori fascisti, a tutti i livelli, cioè non fascisti normaci, ma fascisti dal punto di vista proprio del pensiero. E poi, per esempio, abbiamo analizzato tutte quelle che potevano essere invece le modalità di rivolta, cioè i meccanismi della rabbia, i meccanismi della disubbidienza, i meccanismi dell'alterità, e abbiamo dedicato una sezione poi ai possibili modi di uscire da questo, cioè alla l'autodifesa femminista, che ci appartiene, quindi è uno dei punti cardine del nostro pensiero, ma l'autodifesa può essere trasferita per esempio a tutto il mondo antagonista, non è una modalità che appartiene solo a noi. E poi anche l'ultima iniziativa che abbiamo fatto era riferita, aveva una domanda sospesa, che era: che cos'è per te la militanza? E di tutte queste sezioni che abbiamo impostato, una era dedicata alla storia e alla memoria, cioè al recupero, perché noi partiamo, partendo sempre da noi, siamo partite dall'esperienza delle donne, al recupero di tutte quelle, che noi abbiamo considerato emblematiche situazioni in cui negli anni 70 delle donne hanno agito azioni armate, hanno intrapreso percorsi di azione e reazione armata, si sono fatte carico di questa e, per esempio, sono state silenziate, demonizzate, addirittura sepolte nel silenzio, perché, oppure il loro discorso è stato completamente travisato, perché il sistema ha questo, porta avanti questo meccanismo, cioè tutto quello che nella memoria non vuole che sia ricordato o lo demonizza o lo silenzia assolutamente. Quindi la memoria che porta avanti il sistema è una memoria di fatto taroccata, edulcorata, piegata ai suoi interessi. Quindi recuperare la storia e la memoria di chi si è posta in maniera diversa è importantissimo, tant'è vero che una delle iniziative è stata questa sulle militanti del Black Panther Party e un'altra sul gruppo femminista delle Rote Zora, che è un gruppo tedesco che dagli anni 70 agli anni 90, un gruppo femminista di guerriglia urbana, che proprio neanche quello, come se non fosse mai esistito. Allora, a proposito delle femministe, cioè delle, non delle femministe, ma delle militanti del Black Panther Party, a noi interessava proprio del Black Panther Party tutta una serie di questioni, cioè per esempio il rapporto con il territorio, quindi tutto quello che loro avevano messo in atto come gruppo per rapportarsi con la comunità nera, dalle colazioni ai bambini, al sistema sanitario, all'aiuto alle famiglie carcerate, al un programma di alimentazione, quindi loro avevano messo in atto tutto questo tipo di percorso. Dopodiché l'autodifesa, cioè la self-defense, Silvia mi perdonerà la pronuncia allucinante, non c'è problema. quello che loro chiamavano patrolling, cioè il pattugliamento del territorio in armi da parte della comunità nera, in modo da opporsi alla polizia che in maniera arrogante, sistematica e continuativa vessava e comunque anche uccideva i neri in maniera impunemente. Quindi tutta questa serie di cose, un attimo, ve le sintetizziamo con una serie di diapositive, di fotografie. Questa è una foto, aspetta, puoi tornare indietro, prima c'era una foto fissa, ecco, per esempio quello che dicono tutte adesso, anche c'è parte del movimento femminista che dice: se attaccano una, attaccano tutte, no? Oppure se, questo è, un attacco uno attacca tutto, cioè viene da lì, e la difesa con ogni mezzo necessario, no? Allora, puoi andare avanti, e questa è un'immagine di autodifesa armata. Poi ancora, anche questa, vai. Ecco, questo è infatti il partito, come vi dirà meglio Silvia dopo, si chiamava Black Panther Party for Self-Defense. Avanti. Questo è il programma per i bambini, no? Il coinvolgimento dei bambini nelle scuole. Vai, anche questo. Questo è il programma alimentare. Questo sempre sono i gruppi femminili, ma poi anche in parte femministi. Ma questa è stata una manifestazione di fronte... Questa è una fotografia di una grande manifestazione di fronte al tribunale, alla corte di Oakland, nel periodo in cui il fondatore del partito era in carcere accusato di aver ucciso un poliziotto. Perciò... Questa è uno striscione, la manifestazione, questa te la ricordi? Sì. Vai ancora, questa è una dei loro banchetti. Poi adesso, ecco, questa è Afeni Shakur, Assata Shakur, Barbara Isley Cox, Chaka Khan, Charlotte O'Neill, Elaine Brown, Erika Huggins, Friedrika Newton, Kathleen Cleaver, Rosemary Neal e un omaggio a Silvia. E così le passo la parola. Allora, questa presentazione, come ha detto Elisabetta, aveva degli obiettivi specifici di illustrare certe cose che interessava alla coordinamento, però io ho sentito anche la necessità di mettere la nascita, la fondazione del partito nel contesto storico giusto, perché a volte ho paura che il partito viene talmente tolto al di fuori del suo contesto che non si capisce come mai questo partito è nato, e è invece veramente stato il prodotto di quegli anni, ma in particolare il prodotto della lotta di quegli anni. E direi che una cosa è avvenuta dopo, per iniziare, una grande mancanza è venuta proprio nella sinistra americana dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è la mancanza del Partito Comunista. Il Partito Comunista, che aveva appoggiato la guerra, era stato anche tollerato, perché in quel periodo l'Unione Sovietica era un alleato, si trova completamente spiazzato quando la posizione all'interno degli Stati Uniti cambia totalmente e il partito è messo sotto, proprio represso, molti militanti sono imprigionati, perdono il lavoro e molti militanti devono andare in clandestinità per evitare questa repressione. Questo ha lasciato un vuoto significativo, e allora in questo vuoto significativo sono emersi dei movimenti che hanno dato di nuovo vitalità e anche, diciamo, hanno aperto tutta una nuova fase della sinistra all'interno degli Stati Uniti. Non erano solo un movimento, ma penso io, dal mio punto di vista, il movimento fondamentale che emerge in questo periodo è il movimento per la liberazione del popolo afroamericano. E questo movimento esplode nel sud del paese perché lì abita, per ragioni storiche che tutte conoscete, la maggior parte degli afroamericani, e vive ancora in condizioni di semischiavitù. Perciò la contraddizione col sistema, con lo Stato, con il sistema di potere negli Stati Uniti è più espressa in modo profondo nel sud del paese. Però ci sono varie iniziative specialmente una nell'estate del 1964, di portare 1.000, 2.000, 3.000 universitari, sia afroamericani che bianchi, nel sud, con vari obiettivi, ma l'obiettivo più importante era di registrare la popolazione locale afroamericana a voto, perché questo a loro non era permesso. In questo contesto emergono due visioni completamente contrastanti dell'obiettivo del movimento. Per una parte del movimento l'obiettivo è appunto questo: la registrazione al voto, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il miglioramento del sistema di istruzione, e anche creare un'opinione pubblica, anche attraverso l'uso dei media, che appoggia questa lotta e fa pressione sul governo per l'adozione di certe legislazioni, certe riforme. È una visione abbastanza, come dire, riformista, che ha degli obiettivi specifici ma limitati, e che vede lo Stato, il potere, come la controparte con cui si può negoziare e con cui si può arrivare a un accordo. E questa infatti è la parte molto del movimento che viene descritta anche nei film. Recentemente c'è stato questo film che si chiamava Selma. Molto del film è questa parte della storia del movimento, ma c'era un'altra parte del movimento molto importante, che aveva una visione completamente differente, e questa parte del movimento si vedeva in una lotta antagonista con lo Stato, non pensava che doveva chiedere niente allo Stato, perché la loro visione non era il fatto che c'erano delle cose, dei diritti che venivano negati, che lo Stato poteva concedere. No, i diritti erano già loro, perché erano loro, perché erano esseri umani, infatti chiamavano i diritti umani, non diritti civili, e dovevano lottare per riconquistarseli, perché attraverso una violenza erano stati deprivati di quelle cose. E in questa parte del movimento si praticava anche quello che è stato nascosto per molti anni, l'autodifesa, sia a livello individuale, ad esempio la notte, se arrivavano persone che ti volevano fare male, nella casa c'erano le armi e si sparava per proteggersi, ma c'erano anche gruppi che la praticavano in modo molto più esplicito e avevano anche un ruolo di proteggere il movimento. Questa cosa sta emergendo adesso, perché sono scritti dei libri interessanti in questo ultimo periodo che parla questo aspetto di quegli anni, che fino adesso sono stati, non so come dire, repressi o volutamente ignorati. Silenziati. Silenziati. Infatti, uno dei libri che mi è molto interessato intimamente ha il titolo di "Questa cosa non violenta finirà per ucciderti", che dà un po' il senso di come era visionata la cosa. Dico tutto questo perché mentre nel sud succedeva tutto questo, e specialmente questa seconda parte del movimento poi ha avuto un'evoluzione in cui c'è stato tutto uno sviluppo di dire dobbiamo assolutamente concentrarci sulle nostre comunità, dobbiamo organizzare noi stessi, le nostre comunità, e se i bianchi vogliono veramente aiutarci devono fare il lavoro duro di organizzare le loro comunità, magari in modo parallelo, ma non possono più essere parte del nostro movimento perché il rapporto è troppo contraddittorio politicamente. Questo movimento non aveva grossi riscontri nel nord del paese o nel west del paese, e qui penso entra la questione del partito delle Pantere Nere, perché loro si schierano nel formare questo partito per l'autodifesa chiaramente con questa parte del movimento. La loro visione è che loro fanno parte e portano in parte del paese, in particolare qui si parla della California, questo movimento che sta crescendo nel sud, che però ha dei principi molto specifici e si schiera in maniera antagonista con il potere negli Stati Uniti. Il loro pensiero è che queste comunità afroamericane in tutto il paese sono delle colonie interne degli Stati Uniti e perciò per definizione la lotta deve essere una lotta anticoloniale e anche antiimperialista, perché gli Stati Uniti viene visto come un impero all'interno del quale appunto ci sono anche queste colonie interne del paese. E se uno è una colonia, come si mantiene questa relazione violenta tra il potere e le persone colonizzate? E la loro analisi è che questa relazione di potere viene mantenuta attraverso la polizia, che è la polizia nel loro ruolo quotidiano di soggiogare queste comunità, che è la rappresentazione del potere a livello proprio locale, e perciò contrastare il potere della polizia è in qualche modo mettere in moto una resistenza che ha degli obiettivi anche concreti, perché loro, come ha detto Elisabetta, loro andavano in giro appresso alle celleri della polizia, e se la polizia fermava qualcuno loro uscivano dalla macchina e dicevano alla persona: tu hai questi diritti, loro non te lo diranno, e poi seguivano per assicurarsi che la polizia non menava, assaliva le persone. Perciò c'aveva anche delle cose concrete, ma secondo me la cosa più importante che loro volevano comunicare e che hanno fatto con successo era la questione del diritto alla resistenza e di diritto che la gente non doveva più subire questa violenza. E l'hanno fatto usando un meccanismo che gli era permesso per una di quelle cose strane che a volte avvengono negli Stati Uniti, che c'era una legge nello stato della California che ti permetteva di andare in giro con le armi. E loro hanno studiato la legge, hanno trovato questa cosa e andavano in giro proprio armati, ma non armati nascosti, armati in modo palese. E questo è stato in quel periodo veramente un'azione che ha avuto delle ripercussioni enormi, ma proprio ripercussioni anche, intellettuali, perché ha aperto tutta un'altra visione di come il rapporto tra colonizzato e colonizzatore doveva essere condotto, e in qualche modo ha cercato un po' di riequilibrare la cosa. Loro hanno scelto anche questo modo per comunicare, perché loro erano interessati a politicizzare quella grande massa di giovani, uomini e donne che vivevano in queste comunità comunemente chiamati ghetto, ma che erano le loro comunità, che avevano a volte lavori, a volte no, avevano delle esistenze molto precarie. Penso che forse in questo periodo in Italia sappiamo quello che significa, che avevano uno stile di vita che a volte era legale, a volte era illegale, che alcuni di loro poi finivano in carcere, altri no, e spesso erano proprio gli obiettivi della repressione della polizia. E loro erano interessati in questo, loro volevano politicizzare questa gioventù, perché fino a quel punto erano stati un po' spettatori di quello che stava succedendo nel sud del paese. Hanno anche deciso, secondo me molto scaltramente, che il loro modo di comunicare doveva essere conciso e breve, perciò hanno sviluppato 10 punti come il loro programma, in cui si elencava appunto molto delle cose che ha descritto Elisabetta, la questione del del diritto a vivere in posti decenti, la questione della salute, la questione dell'istruzione, la questione della povertà. Però secondo me la cosa che loro hanno fatto, che ha reso differente, scusate, questi punti, perché non erano gli unici in quel periodo che si occupavano di quei punti, è il contesto in cui hanno messo queste cose, dichiarandosi assolutamente ingaggiati in una lotta anticoloniale e perciò una lotta che si identificava con tutte le altre lotte anticoloniali che stavano avvenendo in quel periodo, sia in Africa ma anche in Indocina, anche Cuba, perciò prendendo una posizione, diciamo, nella parte progressista del mondo che stava lottando in quel periodo. E l'altra cosa, secondo me, che hanno fatto, che è stata molto importante, è che se tu aderivi al partito non potevi essere reclutato o accettare la NAIA nell'esercito degli Stati Uniti, perché se tu eri un partito delle Pantere Nere, l'esercito dove tu dovevi militare era un altro, era quello della liberazione. Allora possiamo anche dire quanto è stato successo, no, ma il fatto che loro hanno messo questa cosa esplicita: noi siamo contrari alle forze armate degli Stati Uniti, e questa è stata secondo me una cosa molto importante. L'altra cosa che direi, che è stata una decisione al principio che ha molto marcato la vita del partito e l'ha resa differente dagli altri, è stata che da una parte hanno deciso che il partito doveva essere un'organizzazione pubblica, perché era importante che la gente avesse accesso al partito, perché bisognava avere un rapporto continuo con la comunità, e molto di questo rapporto continuo si è sviluppato attraverso la vendita del giornale, che è stato sempre per loro una cosa importantissima. Ogni membro del partito, donna o uomini che erano, dovevano per tot ore vendere il giornale partito per strada. Ma questa è stata una cosa incredibile, perché significava che per tot ore alla settimana tu eri lì, la gente sapeva che tu eri lì, ti portavano, sai che è successo lì, la polizia ha fatto questo lì, è stata una fonte sia di informazioni ma anche di creare un rapporto che era un rapporto quotidiano con la comunità, non c'era distanza. E l'altra cosa, in questo però hanno anche preso un'altra decisione che non è stata resa pubblica, che sin dall'inizio il partito avrebbe avuto una parte che era clandestina, una parte che avrebbe agito a livello clandestino. Questo è emerso più tardi, molto più tardi. E infatti dal principio c'è stata questa dualità: il partito come organizzazione pubblica molto accessibile alla comunità, molto accessibile a tutto, ma anche una parte che si costruiva senza che nessuno lo sapesse. E questo era anche dovuto alla concezione che avevano della lotta, perché non pensavano che la lotta sarebbe finita in una manifestazione o in modo pacifico. Prevedevano uno scontro frontale con il potere americano. Parliamo di donne, che era un po' il tema della serata. Le donne hanno risposto in maniera eccezionale al partito. 2/3 del partito era composto dalle donne, e questo ha un po' a che fare anche con la tradizione della comunità afroamericana, dove le donne sono sempre state in qualche modo la parte più stabile. Ci sono tante ragioni, non è mai la verità, perciò anche nelle chiese, in tutte le istituzioni che erano permesse all'interno della comunità, erano le donne a portare avanti. Ma penso anche che le donne avevano un senso molto profondo in quel periodo di quello che stava accadendo nelle loro comunità, di come la repressione aveva conseguenze anche per i loro figli e le loro figlie, e perciò volevano mobilitarsi per difendere anche proprio la famiglia. E hanno capito in quel periodo, perché poi era un po' nell'aria, che bisognava non agire come unità isolate, ma congregarsi in un'organizzazione che gli dava il potere di poter cambiare le cose. Hanno visto nel partito questo. Chiaramente l'influsso delle donne nel partito, non ho detto prima, ma il partito è stato fondato da nuove giovani uomini, ha creato un po' di contraddizioni. Queste contraddizioni ne hanno parlato le donne abbastanza apertamente, erano basate molto su tre cose. Uno, una cultura maschilista all'interno del partito che era basata su una visione della donna come diciamo la procreatrice di futuri rivoluzionari, perciò la donna come madre, solo che la differenza era che era la madre di rivoluzionari. Ma c'era anche una persona importante nel partito che aveva scritto un libro, non so veramente come l'hanno tradotto in italiano, in inglese Sola Nice, in cui lui ha difeso la questione che lui era andato in carcere per aver stuprato una donna, e questo aveva creato una cultura abbastanza misogena all'interno del partito, e le donne si sono ribellate a questo e hanno chiesto che tutta questa cultura all'interno del partito fosse eliminata. L'altra cosa in cui si sono le donne si sono come dire si sono mobilitate, stavo per dire ribellate, ma non si sono ribellate in quel senso, perché hanno sempre lottato per rimanere nel partito, è il fatto che le donne dovevano avere accesso anche in partito, anche dovuto al numero delle donne che c'erano, ma anche dovuto al lavoro che svolgevano, accesso a posizioni di leadership uguale agli uomini. E la terza cosa molto importante che ha a che fare con quello che ho detto prima, la doppia struttura del partito, le donne reclamavano possibilità di addestramento in modo uguale che avevano gli uomini. Le donne volevano far parte di quella struttura clandestina che esisteva nel partito, che però forse non avevano così accesso come dovevano. Su queste basi c'è stata molta discussione nel partito e francamente sono emerse due posizioni da questo. Una è la posizione di Kathleen Cleaver, che quando gli è stato chiesto recentemente ma c'era un problema delle donne nel partito, e lei ha detto: io sono un po' offesa da questa domanda, perché per me la questione del partito era non cosa facevamo come donne, ma come popolo come avremmo fatto la rivoluzione. Perciò lei enfatizzava che qualsiasi problema se esisteva, e non negava che c'erano i problemi, però la priorità era il mantenimento dell'unità del partito e la spinta rivoluzionaria, che doveva coinvolgere allo stesso modo sia le donne che gli uomini. Perciò qualsiasi contraddizione di genere esisteva doveva essere affrontata in quel modo. L'altra posizione invece è della posizione di una persona che si chiama Elaine Brown, potete forse capire che non mi stava molto simpatica, però che ha enfatizzato invece il maschilismo all'interno del partito, ne ha fatto una bandiera e è diventata anche il presidente del partito attraverso quella manovra. Adesso questa diciamo discussione, lotta interna non è mai arrivata a una risoluzione, ma non è arrivata a una risoluzione perché la gente non voleva, non è arrivata a una risoluzione perché è successo qualcosa di molto più grave che ha messo il partito sulla difensiva, e che è stata la repressione da parte dello Stato e del potere. Chiaramente un partito che va da 9 uomini a 60.000 iscritti entro 4 anni, che ha una diciamo, un ethos e un'etica che si pone il problema della rivoluzione, non poteva essere ben visto all'interno degli Stati Uniti, e il governo ha agito. Il governo ha agito però non solo facendo le cose repressive che tutti i governi fanno, imprigionando molte persone, uccidendo alcune, quelle che riteneva le più pericolose politicamente parlando, creando anche dissenso tra il partito e altre organizzazioni, producendo propaganda a nome del partito che diceva delle cose che il partito non faceva e non credeva, che però creava dubbi e distanza tra la gente e il partito. Tutte queste cose qui che sono avvenute, sono sicura, in tutti i paesi del mondo, negli Stati Uniti hanno pensato: dobbiamo cambiare qualcosa di più fondamentale, perché eliminiamo il partito ma non eliminiamo il problema. E la questione che si sono posta è che dobbiamo cambiare la classe del popolo afroamericano. Il popolo afroamericano era un popolo di contadini e di lavoratori. Non c'era borghesia, non c'era piccola borghesia, nulla di questo. C'erano qualche insegnante, c'erano qualche persona che faceva il lavoro di seppellire la gente, e c'erano i padri delle chiese protestanti. Oltre a quello, nulla. E allora il governo ha pensato che bisognava mettere le basi per creare all'interno di questo popolo una classe borghese che avrebbe avuto l'interesse nello Stato, in quello che era il potere americano. E infatti l'hanno fatto in questo modo: prima di tutto hanno invitato gli afroamericani a partecipare in modo massiccio nel Partito Democratico. Chiaramente c'è una differenza se uno milita nel partito del Pantere Nere o uno milita nel Partito Democratico. L'altra cosa che hanno fatto, hanno per la prima volta aperto agli afroamericani tutte le burocrazie, la burocrazia federale, le burocrazie locali e anche la polizia. Per la prima volta è stato permesso agli afroamericani di entrare nei corpi della polizia. L'altra cosa che hanno fatto, hanno deciso di devolvere milioni e milioni di dollari, ma veramente delle entità importanti, e l'hanno chiamato questo la guerra contro la povertà. Si creavano dei programmi a livello locale che dovevano fare in qualche modo cose parallele a quello che già faceva il partito, no? L'istruzione, da mangiare ai bambini, distribuire il cibo alle persone che non l'avevano, preparare i ragazzi magari andare all'università. E questi programmi assumevano persone la cui sicurezza, sia economica ma anche identificazione, diventava il sistema e il governo, perché era improntata a quello. E l'altra cosa che hanno fatto, hanno aperto anche le università, che le università bianche dove andavo io aveva una piccola minoranza di studenti afroamericani. In quel periodo si è instaurato il numero aperto, e tutto d'un botto le università bianche erano aperte agli afroamericani. Parallelo a questo, hanno anche, attraverso diverse fondazioni, finanziato delle facoltà, le facoltà di storia afroamericana, di cultura afroamericana, tutto questo. Ma il punto della... Allora, uno può dire questa è una cosa positiva, e in un certo senso lo era pure, però l'obiettivo di queste facoltà non era di fomentare quel leggere della storia che ti poteva portare alla resistenza, alla ribellione. No, era di fomentare un leggere della storia americana, dicendo: poi alla fine la schiavitù è finita, potete votare, tutto questo, perciò si può vivere all'interno di questo sistema, anche se questo sistema ha dei problemi. Perciò un popolo che era proletario e agricolo tutto d'un botto a una piccola classe medio borghese, anche di più, che divide ideologicamente quel popolo, perché quel gruppo identifica non con le persone che vogliono lottare per cambiare le cose, ma si identifica di più con l'altra parte. Questo è stato assolutamente devastante e direi l'esempio più chiaro di questo è Barack Obama. Lui viene da quella storia, Michelle Obama, lei viene da quella storia, e di questa divisione che c'è stata, che il governo ha curato e anche finanziato. Chiaramente molti aspetti di questa strategia non erano così chiari in quel periodo, ma l'aspetto repressivo della carcere, dell'arresto, lo era. E allora nel partito si è sviluppato un dibattito di come affrontare questo periodo. C'era prima la fotografia di Huey P. Newton, dopo 2 anni di manifestazione il movimento intero, non solo il partito Pantere Nere, è riuscito a fa scarcerare Huey, però il problema è stato che erano passati 2 anni e in 2 anni le cose non erano rimaste allo stesso tempo e il partito era passato in altre mani, anche alcune donne, le donne di cui parlava le foto ha mostrato Elisabetta, e invece Huey esce dal carcere con quest'idea che lui si deve riconquistare il partito, e non solo lui si deve riconquistare il partito, ma lui ha un'idea che di fronte a questa repressione il futuro del partito può essere solo assicurato se il partito si concentra su quei programmi di sopravvivenza, accetta i fondi anche del governo e si presenta alle elezioni, perché presentarsi alle elezioni costituisce, diciamo, una coperta di sicurezza che fino a quel momento al partito mancava. Devo dire che c'è tutta una parte del partito, la parte clandestina, la parte che stava più a New York e a, diciamo, sulla costa orientale, che assolutamente è contraria a questo, che pensa che, come lo pensavamo tutti noi, che eravamo in un periodo pre-rivoluzionario e bisognava continuare dritti per quella strada, e magari la sconfitta ci sarebbe stata, ma era già più sconfitta arrendersi prima che la lotta si fosse in qualche modo totalmente manifestata. Su questa base il partito si spacca completamente, e la spaccatura avviene in questo modo molto pubblico, perché in un programma televisivo Huey, che aveva qualche problema di ego, devo dire, licenzia o scaccia dal partito questo compagno che era il responsabile per la costruzione della la parte clandestina. E quello è il segnale della fine. Il partito non è più lo stesso. Sì, continua per pochi anni, ma continua in modo totalmente riformista e diventa una parte quasi del Partito Democratico. Quella parte rivoluzionaria si concentra sull'aspetto clandestino e poi evolve in quello che si chiama BLA, Black Liberation Army. Volevo dire una cosa sul rapporto con gli altri movimenti e sul rapporto con i bianchi del partito, ma forse prima che lo dico Pino. Scusami, ho avuto un lapsus. Per 7 anni abbiamo agito al fianco del Black Liberation Army. Molto impegno fu diretto verso l'acquisizione e lo sviluppo di tutto ciò che permette ad un apparato clandestino di funzionare. Appartamenti, veicoli, documenti, soldi, armi. Ma ciò che ci ha politicamente caratterizzato in quel periodo è stata la liberazione di alcuni detenuti politici, in particolare di Assata Shakur. Dopo il suo arresto, Assata è stata processata 6 volte, accusata di una varietà di reati che l'FBI riteneva fossero di responsabilità del BLA. Ogni volta ne uscì indenne. Un processo doveva essere affrontato, il più difficile. Per lo scontro sull'autostrada del New Jersey, Assata e Sundiata furono accusati di omicidio di un poliziotto e del loro compagno morto durante la sparatoria. Per condannarlo lo stato del New Jersey dovette processarla 3 volte, l'ultima volta nel febbraio 1977. Il dibattito si tenne a Morriston, sede di una contea agiata e senza nessun residente afroamericano. Infatti fu lì che il governo poté selezionare una giuria composta solo di bianchi e finalmente si assicurò che Assata fosse condannata a 120 anni di reclusione. La condanna di Assata è stata una ferita aperta per tutto il movimento. Anche coloro che non condividevano le sue idee politiche erano convinti che con una giuria differente il verdetto sarebbe stato l'opposto. La lunghezza della condanna e le condizioni di carcerazione isolata in una cella sotterranea di un carcere maschile sono stati vissuti come la continuazione della persecuzione politica che l'aveva portata a essere considerata la fuggitiva più pericolosa in tutti gli Stati Uniti. Per il movimento la sua liberazione divenne una priorità e mentre gli avvocati perseguivano un iter legale per impugnare il verdetto, i comitati di difesa sviluppavano campagne di solidarietà, il suo trasferimento nel carcere femminile del New Jersey offrì l'opportunità alle forze clandestine di andarla a prendere. Il 9 novembre 1979, una giornata fredda, grigia, 3 uomini afroamericani furono ammessi come visitatori nel carcere. 20 minuti dopo ne uscirono con Assata e 2 ostaggi. Recentemente ho saputo che il mio coimputato, il compagno Sekou Odinga, in una conversazione con un giornalista americano ha descritto quello che avvenne durante quegli interminabili minuti. In queste circostanze mi sento libera di descrivere cosa accadde una volta che il perimetro del carcere fu superato. È stato mio compito trasportare Assata e Sekou fuori dall'area e consegnarla ai compagni e alle compagne incaricate di proteggerli. Abbiamo attraversato lo Stato. Erano nascosti nel portabagagli di una grande Lincoln Continental, accompagnati dalle sirene della polizia che iniziava a erigere blocchi stradali. Ma in un paese così condizionato dal razzismo, a nessun membro delle forze dell'ordine è venuto in mente di fermare un'auto di lusso guidata da una donna bianca. Oggi Assata vive a Cuba, protetta dalle continue provocazioni degli Stati Uniti. Nel maggio 2013 l'FBI l'ha nuovamente posta nella lista dei terroristi più pericolosi e ricercati. È un segnale preciso da parte di un governo non disposto a chiudere la guerra contro il movimento afroamericano. Questa è una storia americana di Silvia Barandini. Allora. Volevo solo dire che essendo il partito per definizione considerava un partito antiimperialista, ha avuto anche sin dall'inizio un approccio di creare rapporti in particolare con altri movimenti nazionali che si stavano sviluppando in quel periodo negli Stati Uniti, i nativi, i portoricani. E un'alleanza si è formata tra questi movimenti che ha anche funzionato molto bene per un certo periodo. In più, chiaramente, in particolare anche durante il periodo della repressione, si è sentito la necessità da parte del partito di lavorare con il movimento, lo chiamavamo il movimento antiimperialista, però eravamo noi i bianchi, e loro hanno iniziato molto a venire nelle università a parlare e a descrivere gli obiettivi del partito. In questo modo si è iniziato a sviluppare un rapporto però è un rapporto basato sul nostro riconoscimento che loro erano un partito autonomo e che noi avevamo una funzione di solidarietà e che il rapporto era un rapporto politico in base a degli obiettivi comuni. Perciò non c'era assolutamente nessuna interferenza da parte nostra, o non ci doveva essere, nel loro movimento. Questo era molto necessario negli Stati Uniti per via della storia del passato, perché diciamolo, anche nel movimento non è che ci siamo comportati benissimo verso quello che in Italia si chiama le minoranze, ma io preferisco chiamare nazionalità all'interno degli Stati Uniti. Perciò loro hanno, come dire, hanno voluto questo rapporto, però stava a noi di svilupparlo in un modo che era coerente con certi principi, e il primo principio più importante era il riconoscimento del loro diritto all'autodeterminazione. In questo contesto c'è stato anche lo sviluppo di un rapporto con il movimento femminista americano. In particolare questo rapporto si è sviluppato, secondo me, intorno a delle cose concrete. Poi ci sono state anche dei dibattiti ideologici, ma il succo del rapporto si è sviluppato quando alcune delle donne nelle fotografie sono state arrestate, accusate dal governo di terrorismo e varie cose, e il movimento femminista si è molto organizzato per difendere queste donne e anche pagare la loro cauzione, che era molto elevata. In fare questo è scattato, lo dico solo per una contraddizione all'interno del movimento femminista, perché c'era una parte del movimento femminista che era contraria a questa relazione, che la vedeva come dispersiva, che bisognava che le donne in quel periodo si concentrassero sulle loro contraddizioni e sulle loro obiettivi. Invece c'era un'altra parte, di cui facevo parte io, perché è stata così, che vedeva la questione come, non che era dispersiva, ma che se avevamo un'analisi che la nostra oppressione dipendeva, aveva certi aspetti, ma dipendeva dal sistema capitalista che opprimeva anche gli afroamericani, non potevamo, considerando poi la particolarità della storia negli Stati Uniti, non lottare a fianco di loro. Questa cosa non è che è finita, devo dire, molto bene, perché anche lì è finita in una spaccatura nel movimento femminista che non so se si sia mai sanata. Lo voglio dire perché sono stati dei tempi molto duri, e con questo io avrei concluso. Io volevo dirvi due parole rispetto a come tutto quello che ha raccontato Silvia, e comunque quello che abbiamo condiviso con lei, abbiamo cercato di usarlo, perché a questo serve la storia e la memoria, e di riportarlo all'attualità. Diciamo, che cosa significa tutto quello che ha detto Silvia in questo momento per noi? Quando per esempio lei ha parlato di come è stato destabilizzato il movimento del Black Panther Party, e quindi il movimento di ribellione nero, è particolarmente evidente che può essere portato come esempio di quello che è successo all'interno del femminismo adesso. Cioè, il movimento nero è stato destabilizzato con la creazione all'interno di una classe omogenea di un gruppo che aveva interesse diverso, una piccola e media borghesia che era interessata a essere legata agli interessi di Stato, agli interessi del potere, avere i finanziamenti, i soldi, i percorsi che il potere gli metteva a disposizione. Questo è successo anche nel femminismo, ed è quello a cui assistiamo noi adesso. Cioè, mentre una volta la chiamiamola classe, tra virgolette, delle donne, era un insieme omogeneo ed era tutta, tutte le donne erano soggette a un'oppressione, erano tutte relegate al lavoro di cura e al lavoro riproduttivo, seppure in maniera diversa a seconda delle classi di appartenenza e in maniera più o meno violenta e più o meno agiata. Diciamo il recupero da parte del sistema delle lotte degli anni 70 è stato usato l'emancipazionismo per creare una frattura forte all'interno della classe delle donne. Cioè adesso ci sono delle donne, molte donne, che sono state coinvolte nel sistema di potere, che lavorano per il sistema di potere, che sono attive e partecipi nell'oppressione di tutte le altre donne. E queste donne non sono soltanto quelle che nel sistema di potere lavorano direttamente, perché ci sono le ministre, ci sono le giudici, ci sono le magistrate, ci sono le poliziotte, ci sono tutte le donne in divisa, ci sono quelle che hanno accettato di entrare nell'esercito, ci sono quelle che lavorano per le multinazionali, no? Christine Lagarde è addirittura al comando, insomma è la massima dirigente del Fondo Monetario Internazionale, ma ci sono anche tutte quelle che attraverso tutti quei programmi come l'associazionismo, le varie ONG, i vari progetti, si sentono partecipi e coinvolte nelle sorti del potere e hanno completamente abbandonato quello che è l'obiettivo che ha sempre avuto il movimento femminista e da cui è stato sempre caratterizzato. Il movimento femminista, per poter liberare le donne del patriarcato, deve essere necessariamente antagonista, antisistema, perché deve rompere la norma, rompere la legalità, rompere il sistema di valori a cui è improntato il patriarcato e il capitalismo, altrimenti non usciamo fuori, non è altro che una riproposizione a un livello diverso dello stesso tipo di oppressione, ma con connotati, chiamiamoli così fra virgolette, edulcorati. Allora il movimento femminista adesso, qualsiasi cosa faccia e qualsiasi iniziativa prenda e qualsiasi decisione assuma, non può prescindere dal fatto che l'insieme delle donne è attraversato dalla classe in maniera fortissima, e non può prescindere dal fatto di denunciare sempre questa frattura e quindi dal dare indicazioni rispetto a qualsiasi tipo di lotta delle donne che stanno da una parte e delle donne che stanno dall'altra, altrimenti noi porteremo il movimento femminista alla fine, perché il movimento femminista sarà identificato come collaterale al potere, come collaborazionista e come strumento di oppressione sociale, perché già adesso ha cominciato a essere partecipe di tutta una serie di stigma, di divieti, di normatività e di normalizzazione del sociale, e questo è una cosa di cui bisogna prendere atto e che il movimento femminista si deve assumere, perché altrimenti noi non ne verremo mai fuori. Volevo aggiungere una cosa di cui che mi è venuta in mente adesso e che mi è sfuggita, ma che secondo me è un motivo di chiarezza. Cioè l'oppressione delle donne continua a essere trasversale, cioè anche la ministra può prendere gli schiaffoni dal marito, però la risposta non può essere interclassista, cioè l'interclassismo non può essere una modalità di lotta. L'oppressione è trasversale, ma la risposta deve essere di uscita da questa società. Pare a riga da George Jackson. Cambiamento rivoluzionario. Per narrare a non picaremo su. Tutto su chi tiene di sono progento e anche lo può in San Mano del 99 progento su con sua banda. Se a questo uno progetto lo mutiamo per secondo un altro uno progetto, non abbiamo già poter fare dare del cambiamento rivoluzionario. E a tale che sia stato moderno, altro non essere che un Stato integrato in suo capitalismo monopolistico, una rivoluzione in cui intro tenne sentito pezzi si lo destruede, e fra la forma economica e culturale se non ha davvero. So il problema della colonia niedda, e so della colonia latina, so il problema del dotto gusto 99 progento, cioè in die, dominato e manovrato, non lo siamo già poter risolvere se sono medio materiale che per questa soluzione bigherene ana barrare proprietà privata di una minoria oriolata a pezzi per le esigenze sua e della sopravvivenza sua. Questa minoria non ha da piegare mai in considero la rezzetta debitas. E questo non lo ripete né son maiorale se ne sono del patto Reich. Un governatore vicario della California, in conto de povertà, nato là da chi de tre parti della popolazione, una da essere sempre a Sagana, vestita di strazzoso e con domo truzzoso. Ma è da problema sociale, se nacchi, non lo potimo mutare, non lo schedimo mutare, proprio chi non tocca da noi si all'ottere baiulare sos aggravio di questa mutata. Ma questo conto suo, so che sta a narrare, le tre parti giuna, in difetto giuno, de proposito. Sa coscienza, sul reverso de s'indifferenzia este, de sa disgana, de so turpumine, si sviluppo de no coscienza che l'ompe da un concetto meru e sincheru, cada uno de noi si este parte di un'azione e di un'interazione universale, che ha procata trauma, procata disconnessione, procata disturbo degenerativo pa causa materiale. Casa vita una rivoluzione est. E se non amo già essere attretto di decifrare e attuare il suo imperativo suoso, su mondo si cada a morrere. E su mondo si cada a morrere non per volontà de sua, ma casa forza de sa reazione hanno ingendrato di schissi so chi che l'hanno a isperdere. Questa è l'epoca de sa bomba, de so gas nervinoso, de s'inquinamento caionato dai suoi carricos industriales. Sa coscienza sta a conoscere, e sta a riconoscere, e sta a presumere. Tenimo sentito chi nos aggiuna a seguire sa crescita. E a questo idea è piegato sul libero, so. Tocca a decheogare sul metodo con mirata e analizzo funguto, so. Imprende la creatività nostra e sa capacità di insertare sul momento. Allora, se ci sono domande per Silvia o per Elisabetta, qualcuno vuol chiedere qualcosa? Dai, fine, inizia tu. L'ho scritta perché sono andata. Allora, diversi membri del movimento sono... Davanti il microfono fischia, devi salire. Vabbè, lo dico a voce. No, non si sente. Allora, diversi membri del movimento sono ancora oggi incarcerati come prigionieri politici. Sebbene l'esperienza delle Pantere si sia conclusa negli anni 80, possiamo considerarle un'organizzazione vivente perché i problemi che hanno affrontato sono ancora presenti? No, il partito non esiste più. È proprio terminato. Chiaramente ci sono ancora, credo, 300 membri del partito incarcerati. Secondo me parte del problema è stato che non si è stati capaci, e includo me stessa, nel costruire una difesa unitaria e politica per tutte le persone. Si sono stati costruiti tanti comitati per diversi individui e secondo me questa non è stata una buona strategia politica. In più ci sono stati alcuni che hanno preferito, hanno scelto una via legale per uscire dal carcere, erano convinti che solo loro potevano portare nuove prove del fatto che non avevano commesso quel reato, quella cosa, sarebbero stati scarcerati. E questo non è vero. Diciamo che la persona che è stato membro del partito, per cui si è costruita una campagna anche internazionale molto efficace, è stato Mumia Abu-Jamal. Ma che cosa ha ottenuto questa campagna? Ha ottenuto che la pena di morte si trasformasse in ergastolo. Invece non si doveva fermare la campagna, a quel punto si doveva lottare per la sua scarcerazione. La cosa che io dico sempre è che il gruppo dei detenuti politici, che politicamente secondo me è stato più capace di mantenere una posizione così netta, che ha forzato poi il governo degli Stati Uniti, anche per ragioni opportunistiche, a rilasciarli, è stato il gruppo dei compagni e compagne portoricani, che tutti appartenevano a delle formazioni clandestine, non c'era nessuno che era una persona pubblica. Però loro hanno preso questa posizione dal primo momento, che loro erano prigionieri di guerra perché Porto Rico è una colonia degli Stati Uniti, che loro non riconoscevano le corti, che loro non avrebbero neanche contestato quello che il governo diceva perché non gli interessava, quello non era la loro lotta, e hanno accettato delle condanne che andavano dai 160 anni ai, credo la più piccola era 40 anni come la mia. Hanno mantenuto questa posizione durante tutto il periodo della loro incarcerazione, e il fatto che loro sono rimasti uniti, hanno mantenuto la posizione originale, ha dato spazio alle persone all'esterno di costruire una campagna che ha trasformato la loro immagine da terroristi in patrioti. Perciò alla fine della campagna anche le parti della borghesia portoricana, che era assolutamente contraria a tutti quelli che hanno rappresentato, si sono sentiti in dovere di dire al Presidente degli Stati Uniti: questi sono i nostri patrioti, dovete scarcerarli. E questo Clinton ha fatto, e poi l'ultimo è stato liberato da Obama, diciamo quello che era considerato dal governo il capo, perciò è stato l'ultimo a essere liberato. E secondo me tutto è stato perché loro sono stati, dal momento che sono stati arrestati, hanno preso questa posizione e non hanno mai deviato. E allora ha lasciato alle persone fuori il compito, è diventato in qualche modo più facile costruire una campagna coerente che li rappresentava per quelli che erano. Perché nessuno ha detto: ah, ma forse accetto questa cosa, questo e quell'altro. Hanno mantenuto proprio quella cosa che ha permesso alla gente, anche la gente che non li sopportava politicamente, di dire: queste sono persone che hanno dei principi. E anche tra i bianchi, assolutamente questo non è successo, un po' tutti se la sono cavata, anche molto meglio degli altri. Io ho avuto la fortuna di essere italiana, e quello chiaramente ha giocato in mio favore, però questo secondo me è molto da riflettere sulla questione di come, una volta che uno, specialmente uno che proviene da una certa storia in carcere, come poi all'esterno si crea la possibilità di guadagnare la liberazione senza compromettere quello che li ha portati in carcere. No, perché questo è il problema in Italia oggi, giusto per parlare di oggi, che le persone che ancora sono in carcere, il governo vuole che la famosa lettera e altre cose così. L'altra questione era, scusami, c'era un'altra parte della domanda. Era quello? Allora, adesso una cosa voglio dire è che molte delle persone, delle 300 persone che sono ancora in carcere, hanno una certa età, perché sono anche più grandi di me, io ho già una certa età, e sono molto malate alcune, e adesso anche grazie a Black Lives Matter e tutto il rinnovato movimento contro la violenza della polizia, sta creando un interesse nuovo a risolvere la questione dei detenuti. perché chiaramente con il risorgere di un movimento che è molto differente, anche creato su basi completamente differenti, perché il partito era molto verticale, era molto strutturato, Black Lives Matter è orizzontale, sezioni nazionalmente sono molto differenti gli uni dall'altro, ma questo è permesso dal movimento. All'interno di questo movimento la questione del fatto che ci sono persone in carcere che appartengono, diciamo, a quegli anni di lotta è di nuovo diventato di interesse. Come si risolverà non lo posso dire, anche perché non sono lì, e quelle sono questioni che poi si capiscono bene con l'essere presenti. Io volevo riportare all'attualità anche un altro tema, perché è sempre per il fatto che la memoria e la storia devono servire a qualcosa, cioè il concetto per esempio di integrazionismo, no? Di integrazione, che adesso va molto di moda col fatto che c'è il problema degli immigrati, tutti parlano dell'immigrazione, tutti parlano dei migranti e compagnia bella. Uno dei meccanismi più violenti che l'Occidente pone in atto nei confronti dei immigranti, degli immigrati in questo momento, è quello di pretendere l'integrazione, e quindi di pretendere un individuo o degli individui che assumano la scala di valori nostra e che si dimentichino e che addirittura siano momento di stigma nei confronti di tutti quegli altri che non accettano la scala di valori nostra e non si vogliono integrare. Sono proprio i meccanismi che vengono messi in atto per dividere delle comunità che hanno, o dei gruppi, o dei gruppi di persone che hanno interessi comuni e che potrebbero portare avanti lotte comuni. Cioè l'immigrato che il nostro sistema vuole è quello che si mette la maschera bianca, deve assumere la scala di valori in questo momento neoliberista, deve dire che se uno è bravo ce la fa, che lui ha fatto l'impresetta, che lui ha trovato il lavoro, che lui riesce. E una delle cose più perverse, per esempio, è quella di far fare ai migranti i lavori gratuiti, per cui devono pulire le strade, chiedere i soldi e farsi vedere che sono delle brave persone. Questo è uno dei meccanismi più perversi messi in atto dal nostro sistema anche qui in Italia. Quindi anche questo deve esserci di guida quando si affrontano i temi delle migrazioni, quando si affrontano i temi dell'alto, quando si affrontano i temi. E poi un altro ancora un tema da portare all'attualità è il tema per esempio della guerra, cioè il concetto dell'internazionalismo, per cui noi non è che dobbiamo dimenticare mai che per esempio le migrazioni sono il frutto delle guerre neocoloniali che l'Occidente esporta, e quindi non è facendo la carità attraverso l'associazionismo o l'ONG o le dame di San Vincenzo Rosse che si risolve il problema. Il problema si risolve se noi diamo un forte impulso alla lotta contro il finanziamento delle missioni all'estero, il finanziamento delle guerre, contro la militarizzazione dei territori. E questo è il lavoro che noi dobbiamo fare per noi, non prendere il posto delle lotte degli altri. Non so se sono stata chiara. Posso dire una cosa? Certo. Una cosa che la mia esperienza negli Stati Uniti mi ha molto insegnato è veramente quanto è violento il processo di integrazione, perché pretende la trasformazione e la rinuncia da parte della persona a livello individuale, ma anche a livello collettivo, di tutta la sua storia e di tutto un percorso, nel caso degli afroamericani, di 400 anni. che li hanno portati a vedere le cose in modo differente da me. Però la pretesa è che loro debbano pensare come me. E per questo io penso che la questione del multiculturalismo e l'integrazione è veramente molto pericolosa, perché come diceva Malcolm X, non c'è persona più pericolosa di una persona che non sa da dove viene. Penso che l'integrazione voglia dire tante cose, in particolare penso a un esempio: mio padre è stato immigrato in Belgio, è arrivato lì, vivevano nelle cantine famose, quindi è stato il minatore. Chiaramente, voglio dire, non si è privato della sua cultura, della sua forza interna di essere un sardo, non ha perso niente per quello. Ha imparato il francese, perché viveva in una zona in cui c'erano le miniere francesi, diciamo, in cui si parlava il francese in Belgio. Per me integrarsi significa anche imparare una lingua, ti devono mettere in condizioni di impararti anche una lingua, non devono lasciarti nelle strade. Ci sono diversi modelli di integrazione a livello europeo, certamente l'Italia fa pena da quel punto di vista. Questi giovani che arrivano, è giusto che abbiano un'istruzione e che poi possano rapportarsi con noi senza perdere quello che hanno dentro, la loro cultura, la loro storia, le loro radici, ci mancherebbe altro. Quello è, però è anche intimo, è una cosa personale. C'è gente che radici magari non ne ha, però parlo da sardo e noi abbiamo delle radici ben ferme. Vi ringrazio. L'unica cosa che forse contesterei è che tutti hanno una radice, tutti vengono da qualche parte e tutti hanno una storia, forse è una storia sconosciuta, come ha detto Elisabetta, è una storia soppressa, però tutti hanno delle radici e quelle devono essere rispettate. È vero che la gente, io ho imparato l'inglese, ci ho messo 6 mesi e sono molto contenta di conoscere quest'altra lingua, però non è che mi hanno chiesto che devo scordare l'italiano, no? E quello che sta avvenendo in Italia è un po' un processo un po' più brutale, no? Si chiama diritti e doveri o cose del genere, perciò c'è questa cosa, tu fai questo e noi ti diamo un po' di questo, no, noi gli diamo, noi li accogliamo, poi è un'altra cosa, perché già qui secondo me si stanno mettendo dei paletti che non fanno bene a noi e alla nostra società. Sono altre domande? Forse. No, cioè io riporto sempre il nostro specifico, perché secondo me cioè il lavoro politico deve essere di questo tipo. E anche le donne attraverso l'emancipazionismo si sono messe la maschera bianca, noi ci siamo messe la maschera bianca perché se noi abbiamo voluto l'emancipazione abbiamo dovuto accettare la società patriarcale. Cioè io quando lavoro, lavoro in una società maschile che è impostata maschile e che vuole da me dei comportamenti maschili, altrimenti io la carriera non la faccio, punto. Quindi io mi devo mettere la maschera maschile, tant'è vero che io sono contrarissima, cioè non io in persona, noi come gruppo politico, come coordinamento ne abbiamo parlato tanto, a tutto questo andazzo politicamente corretto che chiama le donne avvocata, architetta, dottora, direttora, un tubo, noi siamo sempre impostate al maschile. Io se voglio lavorare e avere riconoscimento, eccetera, mi devo fare in 10.000 parti e comportarmi al maschile, perché io non posso andare a casa per fare il lavoro di cura, perché i maschi non lo fanno. Io non posso saltare le riunioni al lavoro, perché i maschi non lo fanno. Se vuoi far carriera, ce ne sono tante di donne adesso che fanno carriera, moltissime. Oltretutto devo mettermi una stramaschera bianca, perché devo dimostrare di essere a maschile sul lavoro e di essere coerente con i valori che mi chiede questa società, perché devo fare continuare a fare il lavoro di cura e riproduttivo, che è il mio lavoro per cui sono stata costruita. Quindi noi questo lo sentiamo tantissimo, cioè a noi chiedono attraverso l'emancipazione di integrarci e di essere contente di partecipare a una società che invece ancora ci considera quella di prima. E oltretutto è un ricatto di fondo molto forte, perché adesso la donna che è brava è quella che sa conciliare lavoro e lavoro a casa. Qualcuno, non ce ne andiamo, perciò se la gente vuole parlare con noi individualmente lo può fare pure. Se non ci sono altre domande, comunque noi siamo qui, se volete parlarci individualmente lo potete fare. C'è un banchetto se volete prendere dei libri sulla Black Panther. Comunque non c'è altra strada che costruire un immaginario di uscita da qua. Un immaginario di uscita da qua non ce l'abbiamo più, perché ce l'hanno ucciso. Vediamo un attimo di rimettere in piedi, ecco questo. Grazie. No, non c'è. Non so. Dov'è?